Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatori. Ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. Gli auguri di una buona serata e di un buon ascolto vi vengono anche da Benedetta Acrica in redazione e Robby Scaltritti, che darà musica e ritmo a questa puntata. Vi ricordo che potete porre domande o commentare anche i temi di questa sera via mail a nessunluogo@radio24.it, via sms se siete sintetici al 349-238-6666, sempre con massima sintesi su Twitter, nessunluogo24, e infine sbirciate il profilo Facebook nessunluogolontano-radio24. Il titolo della puntata di questa sera è Iraq, stato dell'arte. Perché al di là della situazione in cui versa il paese dopo il ritiro delle truppe americane ormai datato alcuni anni, dopo le elezioni di aprile in cui vi sono stati parecchi attentati e attentati anche la settimana che si sta chiudendo quest'oggi, la riflessione che vi propongo questa sera è sull'arte irachena, su quanto il conflitto abbia influito sull'espressione artistica, sulla musica, sulla scultura, sulla pittura. Il destro ce lo dà il padiglione iracheno che sarà alla Biennale di Venezia, e già fin d'ora vi dico andate sul sito radio24.it perché troverete alcune delle opere di cui parleremo questa sera. Dicevo, partiamo dagli attentati, partiamo dai fatti di cronaca. La settimana scorsa in più attacchi, 85 morti, 230 feriti, per lo più autobombe e attacchi contro obiettivi sciiti. Il premier al-Maliki, pronto a silurare alcuni dei responsabili della sicurezza, punta il dito soprattutto contro gli incendiari discorsi di alcuni dei leader sunniti. È proprio il braccio di ferro tra i leader delle due correnti dell'Islam e al centro degli ultimi scontri. Vi sono sì zone relativamente stabilizzate nel paese, ma resta il fatto che la violenza settaria non accenna a diminuire. Allora abbiamo chiesto lumi a Mark Levin, che è professore di storia del Medio Oriente all'Università della California Irvine e anche presso il Centro di Studi del Medio Oriente dell'Università di Lund in Svezia. Il suo punto. Secondo me, la causa della violenza è perché il governo si rifiuta di condividere il potere con i sunniti al paese. Questo è chiaro, ma anche perché i dirigenti dei sunniti ancora dopo 10 anni non capiscono come litigare contro il governo senza la violenza. Nel basso della società ci sono tanti iracheni che vogliono costruire, ricostruire la loro società insieme, ma alla cima ci sono troppo potere e soldi. E ancora dopo 10 anni è impossibile per loro trovare una via di lavorare insieme e condividere il potere. Questo è il problema del basso. Mark Levin, docente di storia del Medio Oriente all'Università California Irvine e anche a Lund in Svezia. A lui ho chiesto anche se l'invasione statunitense sia una delle cause della persistente violenza. Sì, certamente. Per me la prima causa è l'invasione statunitense. Ero là 2004 e anche dopo un anno la violenza, la corruzione, l'impossibilità di lavorare insieme senza gli americani, di costruire il paese, era incredibile. Per un decade c'era l'influenza degli Stati Uniti che è impossibile di costruire un nuovo Iraq. Anche c'è il problema dei dirigenti sunniti che non vogliono e non possono pensare dopo la scatola della violenza. E terzo è i dirigenti sciiti che capiscono che adesso, dopo 40-50 anni del governo sunniti, che adesso è possibile di avere tutto il potere nel paese e non devono dividere con i sunniti e non vogliono dividere il potere con i sunniti. Per causa di questi tre problemi non è abbastanza ragione per ogni parte di volere lavorare insieme per un futuro comune. E in questa riflessione questa sera ci accompagnano gli Akrasi Kauda, che sono la rock band irachena forse più nota a livello mondiale. Nel mosaico che sta componendo con noi Mark Levin c'è un altro tassello fondamentale, che è il petrolio. Il petrolio e la gestione del potere alla base del conflitto. Ancora Levin. Il problema è che c'è una differenza molto grande fra il prospettivo del governo e della prospettiva militare e la prospettiva del basso di società, che solamente vuole lavorare e solo vuole vivere e non vuole litigare uno contro l'altro. Ma per me ho paura che la lotta per potere e per soldi e per controllare il governo e specificamente il petrolio ancora non ha finito. Ancora ci sono, non sono partite, ma interessi nell'Iraq e anche fuori dell'Iraq che vogliono continuare la violenza al fine possono prendere più di potere. E questa è una parte contro loro e la maggior parte della società che vuole restare e lavorare e vivere e ricostruire il paese insieme. Ma il problema è, come in tutto il mondo, il lato che ha tutto il potere e tutta la possibilità di utilizzare violenza non c'è il problema di continuare il conflitto e continuare la violenza se questa violenza aiuta. Questo è il braccio di ferro, tutto iracheno, tratteggiato da Mark Levin. Di certo la violenza non ha aiutato, la cultura, l'arte, le espressioni più recenti appunto irachene, ma entriamo nel museo di Baghdad proprio con Mark Levin, che lo ha visitato da poco. Ho scoperto che nel museo c'è tanti oggetti d'arte che ho pensato e che tutti i miei colleghi abbiamo pensato che erano persi completamente, ma infatti il governo ha riuscito di prendere tutti gli oggetti e di comprare, ricomprare e adesso la maggior parte dell'oggetto d'arte sono tornato al museo. Ma nel archivi nazionali è una cosa diversa completamente. La maggior parte dei documenti del periodo ottomano, del secolo XVII e XIX, era distrutta dagli americani durante l'invasione dell'Iraq nel 2003. E anche la periodo dopo il governo Inghilterra era completamente perso. Per causa di questo, la storia dell'Iraq in questi periodi, due periodi, per quasi 400 anni, è perso per sempre. Per me è un disastro, e anche per gli iracheni, perché è impossibile di costruire un nuovo futuro se non capiamo il passato. Dunque, adesso c'è un passato di 3, 4, 5, 1000 anni, e là, e questo è una cosa molto buona, ma il passato di 30 anni fa o un secolo fa è perso. E questo passato è molto molto importante di capire per costruire una cosa nuova, perché gli iracheni e anche noi ancora non capiamo le relazioni fra il governo iracheno e, per esempio, Inghilterra o gli Stati Uniti negli anni 40, 50, 60, quando comincia il periodo del governo del Baath, partito Baath. E anche non capiamo come ha cambiato l'ambiente del governo in Iraq, nel fine del periodo ottomano e anche nell'inizio del XX secolo. E senza questa informazione, come possiamo o come possono costruire una nuova società? Invece, loro continuano gli stessi problemi del passato. E naturalmente da uno storico come Levin non poteva che uscire la tesi recuperiamo il passato per capire il presente e cercare di interpretare il futuro. Baghdad, peraltro, riguardo al futuro e al presente, è capitale nel 2013 della cultura araba. L'ultima domanda a Levin è: com'è cambiata la città negli ultimi anni? Per me era la cosa più ottimista. Baghdad è adesso la capitale della cultura araba e la prima volta quando sono andato in Iraq non era cultura, era solo violenza, solo morte. Ma adesso, ogni giorno, ogni notte, anche con la violenza, ogni notte, c'erano concerti, c'erano film, c'erano spettacoli nuovi, quasi ogni giorno, ogni sera. E ho incontrato con molti artisti, musicisti, registi, e tutti loro, no, hanno pensato che questo periodo, anche con la violenza, era l'inizio di un nuovo periodo molto ottimistico per il futuro. Perché? Perché finalmente, dopo 40, più di 40 anni del governo autoritariano e dopo questo dell'occupazione stranieri, era la possibilità che gli iracheni possano creare l'arte loro stessi, senza censura, senza oppressione del governo. E anche si paragona all'Egitto, per esempio, o Arabia Saudita, non c'è la pressione della società di controllare, non è la pressione in paragona a Egitto o Yemen o anche Morocco di creare arte che va solamente a una via etica, religiosa o una moralità specificamente di Islam. La situazione è più aperta in Iraq per la cultura e questo è molto importante, specificamente per i giovani. E per me la cosa più ottimista in Iraq era i giovani. In paragona, per esempio, alla situazione in Egitto o Morocco o Tunisia, c'è un'energia nelle giovani che vogliono fare cosa molto, molto nuova e non hanno paura del futuro perché hanno visto troppo, troppo violenza di avere paura per il futuro. È impossibile di essere peggio. Loro sono pronti di fare qualcosa nuovo e vogliono e non hanno paura del governo, infatti i giovani, e non tutti i giovani, certamente questa è una classe, poveri hanno una situazione molto diversa, ma per i giovani, i tech heads, musicisti, artisti, intellettuali, per loro c'è la possibilità che non esiste prima. Nessun luogo è lontano. Message from Baghdad, il messaggio da Baghdad è il titolo di questo pezzo della Classicauda, rock band, forse la più nota a livello mondiale, che è appunto irachena. Il messaggio che arriva da Baghdad, beh, se dal punto di vista della cronaca e dell'attualità non è molto confortante, perché vi dicevo 85 morti solo la settimana scorsa in attacchi settari, ebbene invece da quello che è la produzione artistica e non solo musicale, lì insomma il messaggio è molto molto più confortante. Iraq, stato dell'arte, il titolo della puntata di questa sera. Allora, come al solito, noi diamo i numeri. I milioni di dollari stanziati per il rilancio culturale dell'Iraq grazie alla nomina di Baghdad come capitale della cultura araba per l'anno 2013. 30 è il numero di anni che hanno visto l'Iraq dominato dalla dittatura di Saddam Hussein. 10 sono gli anni passati dall'invasione americana del marzo 2003. 82 è il numero dei teatri e dei cinema presenti a Baghdad prima della guerra. 4 sono i teatri attualmente agibili nella capitale irachena, mentre i cinema sono 3. 20 è il numero delle esposizioni aperte a Baghdad prima del conflitto. 4 sono le gallerie d'arte che hanno ripreso l'attività in città. 15.000, i dollari stanziati come budget statale per il rilancio del cinema e del teatro iracheni. 24, i film prodotti ad oggi con una parte di quel budget. Allora, questi numeri del timido, forse possiamo dire così per adesso, rinascimento culturale iracheno, andate sul sito radio24.it, andate a sbirciare. Abbiamo postato una piccola anticipazione di quelle che saranno parte delle opere esposte al padiglione iracheno alla Biennale di Venezia. E troverete l'opera Saddam e qui, sono una galleria fotografica di Jamal Penhiweni, che è molto interessante perché ritrae persone che al posto del volto mettono un ritratto di Saddam nelle situazioni più diverse, più curiose, dalla macelleria interni di abitazioni di Baghdad. Questo per dire quanto dopo la dittatura, la fine della dittatura di Saddam, fosse un tabù ritrarre, addirittura parlare del vecchio dittatore. E poi c'è invece Bassim al-Shaker, un pittore che rappresenta la realtà rurale, bucolica, molto distante, no, dalla politica, dalla guerra. E troverete ancora le tavole di Abdul Rahim Yassir, che invece torna a parlare di conflitto e di bombe che piovono sulla testa. Tutto questo nel padiglione iracheno alla Biennale di Venezia di quest'anno, organizzato e curato dalla Ruya Foundation for Contemporary Culture in Iraq. Noi abbiamo raggiunto Tamara Chalabi, che è il direttore, e a lei abbiamo chiesto lo stato dell'arte in Iraq dopo 10 anni di guerra e di occupazione americana. Io non la vedo come dopo 10 anni di guerra. Io la vedo come dopo 10 anni di guerra più 30 anni di dittatura. C'è stato un impoverimento in molti settori. Prima di tutto si trattava di una produzione d'arte sotto il controllo statale. Sotto il regime di Saddam ci sono stati molti artisti attivi dal punto di vista creativo, ma era un'arte ufficialmente censurata. I campi di espressione erano molto generalizzati, in accordo con una sorta di quadro delle aspettative. Quindi ha fornito una sensibilità, diciamo, monocromatica, non dal punto di vista artistico, ma le persone non potevano davvero esprimere se stesse a 360 gradi, non potevano farlo in nessun modo. Dunque c'erano dei generici dipinti astratti, eccetera, tecnicamente molto importanti, perché le scuole d'arte in Iraq danno una buona preparazione riguardo a tecnica di pittura, di scultura, in un modo tradizionale, simile a quello sovietico, ma non riguardo all'intensa espressione artistica. Infatti, era dovere di ogni artista fare dei ritratti del leader. Anche il periodo futurista in Italia, sotto il regime di Mussolini, era forse più interessante dal punto di vista artistico. E quindi con la guerra ciò che è accaduto è che si è cercato semplicemente di cogliere il meglio. A causa del diminuire della sicurezza e del collasso dello Stato su vari fronti, ci sono stati sviluppi e innovazioni a livello locale. Il lato positivo è che c'è stata teoricamente maggiore libertà di espressione, ma in pratica il metodo di insegnamento dell'arte nelle scuole specifiche è arrivato ad un livello molto basso, non ha avuto sviluppi, si può dire, dagli anni Ottanta. Quindi si è perso molto dal punto di vista della tecnica, dei materiali, dell'esposizione. Anche i professori sono molto vecchio stile, se si può dire. Ma allo stesso tempo c'è più possibilità di accesso, grazie ad internet, rispetto a prima. C'è più possibilità di di consultare riviste, c'è più possibilità di crescere come artista, di viaggiare relativamente. È molto difficile spostarsi ovunque, ottenere il visto di uscita, ma ci si può spostare almeno regionalmente. Ci sono mezzi come la televisione satellitare, insomma, c'è un certo livello di esposizione, ma è ancora tutto una sfida. Come l'arte impatta sul conflitto, anzi scusate, il contrario, come il conflitto va a impattare sull'arte e sulle espressioni artistiche e come questa dittatura e 10 anni poi di guerra e di occupazione americana hanno condizionato gli artisti iracheni. Do intanto il mio buonasera a Federica Chezzi, storica dell'arte e curatrice della rubrica Arte in Conflitto sulla rivista Arte e Dossier. Dottoressa Chezzi, buonasera, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a voi. Dottoressa Chezzi, la dittatura che impone magari cifre, metodi delle espressioni, il conflitto stesso che incide e limita gli artisti, è tutto negativo oppure qualcosa di buono si può trarre da, se così si può dire, no, da un conflitto, da una situazione estrema e di disagio? Sì, può essere molto discutibile in effetti dire vero che ci sia qualcosa di buono. Sicuramente diciamo che quello che connota l'arte in questi territori di conflitto è sicuramente un forte senso critico che in altri posti, come anche la nostra stessa nazione, può mancare. E una grande potenza evocativa di queste opere, raramente l'oggetto della creazione di queste aree del mondo si ferma a un livello puramente estetico e formale. Però direi che anche è importante ricordare come la creazione artistica poi si muove in effetti di pari passo con le altre attività dell'uomo e della donna, ovviamente, e non è un evento speciale, nel senso che appena si supera, diciamo così, quella soglia della sopravvivenza, quando si ricomincia a produrre cibo, a costruire case, eccetera, si ricomincia anche a produrre arte. Quindi io terrei quell'affermazione che mi ha detto Amnon Barzel, che è un critico storico dell'arte israeliano, in un'intervista, e che mi sembra più o meno sia anche quello che poi vogliono raccontare sia Watkins che l'associazione Ruia alla Biennale di Venezia con il padiglione iracheno, e cioè che gli artisti nei paesi ad alta tensione militare, sociale, politica fanno quello che fanno tutti gli altri artisti del mondo, cioè vivono il quotidiano, è che il loro quotidiano non è un quotidiano semplice, non è un quotidiano ordinario ma straordinario evidentemente, quindi poi si riflettono nelle loro opere anche quelle che sono le condizioni di vita. Non è che un artista di un paese in guerra, come del resto un fornaio, un tassista, un insegnante, può permettersi di ignorare quale sia la situazione politica del proprio paese. Certo. E però appunto non è neanche che si mettono lì e scientemente pensano, ecco, ora mi metto a fare una bella opera politica. E che ovviamente raccontando del loro quotidiano inevitabilmente e tragicamente parlano anche di guerre, bombardamenti e stragi. Certo. Non necessariamente, chiaramente. Certo. Dottoressa Chezzi, ascolti con noi. Ho chiesto a Tamara Chalabi della Ruia Foundation qual è l'eredità più pesante degli artisti iracheni. I think many artists there want to forget. Penso che molti artisti vogliano dimenticare e volendo dimenticare ritraggono soggetti considerati più bucolici da un punto di vista occidentale. Quindi non vogliono necessariamente parlare della guerra, non vogliono parlare della dittatura, della violenza. Vogliono pensare a cose belle, vogliono pensare alla speranza. Magari quello che fanno non rispecchia quello che secondo l'immaginario occidentale dovrebbe fare un artista iracheno. Penso che siano interessati ad esprimere se stessi nel modo che li rispecchia. E penso anche che parlare di queste cose dipenda anche dal tempo. Le faccio l'esempio di un giovane fotografo che sto tenendo d'occhio. È molto giovane, ha solo 19 anni. Adesso vorrebbe dedicarsi ad un progetto che si concentri sulle famiglie che hanno perso una persona cara. Qualcuno che sia deceduto per colpa del regime di Saddam Hussein, per esempio. Questo ragazzo non ha vissuto realmente molto tempo sotto il regime di Saddam. Aveva 9 anni quando cadde. Quindi è più probabile che siano le nuove generazioni a pensare e a concentrarsi sul passato. La generazione che ha vissuto quel passato vuole pensare a qualcosa di diverso. Quindi penso che si tratti di una questione di tempo e del tipo di esperienze individuali e degli orientamenti delle persone. Oggi probabilmente i giovani sono più interessati a sfidare il sistema più dal punto di vista sociale, perché c'è un altro tipo di mancanza di espressione. Come sa, c'è una forte atmosfera religiosa in molte aree differenti. Le persone vogliono sfidare la religione, vogliono combattere il conservatorismo in quel modo, molto più che l'America o le bombe. Conservatism in that way. more than, let's say, America or the bomb. Nessun luogo è lontano. Arte e conflitto, questa sera Nessun luogo è lontano, gentili ascoltatori, con Federica Chezzi, storica dell'arte, cura una rubrica che affronta proprio questo tema. Dottoressa Chezzi, in estrema sintesi, l'ultima domanda per lei che è questa. Io ho letto sulla rivista che lei ha affrontato altri teatri, come ad esempio la Palestina, Bosnia, eccetera. C'è un filo rosso che lega tutti questi conflitti e le loro espressioni artistiche? Beh, dunque, appunto, come dicevo prima, sicuramente un forte senso critico, però ci terrei appunto a sottolineare che, come diceva giustamente anche la rappresentante di Ruia, che le opere dal forte tono drammatico, da toni violenti, sicuramente ci sono in questi artisti. Basti pensare a Marina Abramovic, serba, che peraltro vinse la Biennale di Venezia nel 97 con la sua performance in cui lei lucidava per 3 giorni consecutivi delle ossa sanguinolente, appunto dedicate alla sua terra martoriata, alla sì. Serbia, la Bosnia. Però ci sono anche moltissimi artisti in realtà che usano l'ironia per parlare delle tematiche, non per forza della guerra, molti per esempio per le tematiche religiose, come un artista egiziano, mi viene in mente, che ha fatto una Al-Aqsa Park, dove l'imponente moschea Al-Aqsa si alza da terra, si solleva in un video e comincia a ruotare come una gigantesca ruota del Luna Park, o come in Palestina, dove l'artista Waked ha creato lo Chic Point, che è una sfilata di moda con abiti che finiscono sopra l'ombelico, visto che ai checkpoint i militari israeliani fanno sempre sollevare la maglietta per, appunto, in cerca di esplosivo. Quindi, ecco, il tema dell'ironia, per esempio, è molto molto comune in questi paesi, non manca. Ci sono moltissimi disegnatori, moltissimi vignettisti, anche questo è un tratto forse comune. Poi i paesi ovviamente sono molto diversi, perché le situazioni poi economiche e sociali sono diverse. Certo, Israele certo. È una nazione in conflitto, ma è una nazione ricca, evidentemente, quindi i mezzi poi sono altri. Però, per esempio, appunto, i vignettisti sono molto diffusi, i mezzi sono più economici, la diffusione è più semplice ed è un linguaggio che unisce immagine e parola, dunque più efficace, come si pensa a una Metamorfosi iraniana di Nestani, pubblicata da Coconino Press, sì, che è la storia della sua prigionia, cioè, o Zorograph, forse molti lo ricorderanno, i suoi reportage a Striscia erano pubblicati su Repubblica durante la guerra dei Balcani e si chiamavano Saluti da Belgrado. La street art, c'è anche un altro fenomeno degli artisti importanti che arrivano nei paesi in conflitto, come Banksy, mitico Banksy inglese, che è andato appunto in Palestina e ha lasciato i suoi stencil sul muro israeliano. Grazie. Esistono dei talebanski. Sì, grazie, grazie. Federica Chezzi, in effetti potremmo citare tonnellate di artisti. Grazie per il suo contributo, buona serata, buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci. Allora, siamo quasi in chiusura, sì, vi faccio sentire al volissimo Tamara Chalabi della Roya Foundation. Che cosa serve, cosa bisogna fare per rilanciare l'arte in Iraq? I think fondamentally at the first level I would say education. Penso che fondamentalmente ai primi livelli ci sia l'educazione. Dovrebbe esserci un rilancio delle università presenti. Ci deve essere la possibilità per diverse scuole di diventare magari private, che non sia tutto sotto il controllo statale. Sicuramente c'è il talento, ma le persone perdono molte possibilità di esposizione, molta educazione e preparazione a un livello base, quindi non tecnica, ma proprio di cultura generale. Questo è molto molto importante. Sono stata in contatto con l'ambasciata italiana a Baghdad e lo scambio culturale è molto importante, specialmente con un paese come l'Italia, che dal punto di vista culturale può giocare un ruolo centrale in termini di aiuto. Non ci sono molte borse di studio, ma i residenti possono usufruire di programmi di scambio di attività anche in Iraq, dove gli italiani possono andare per un breve periodo. Qualsiasi cosa può aiutare veramente lo Stato in termini di contatti, di esposizione, ma penso che il primo step fondamentale debba essere l'istruzione in una maniera strutturata. E questo è lo stato dell'arte in Iraq. Adesso cambiamo pagina perché vi racconto le vicende di uno che si chiama Mr. Malboro, oppure il Guercio, oppure Mokhtar, Bel Mokhtar. Perché Mottag Belmortar è uno venuto su a contrabbando, traffico d'armi, rapimenti, una formazione sul campo tosta, come si deve per un jihadista in Algeria fin dai tempi del GIA, poi del gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, e infine con la creazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico nel 2007. Poi è andato anche a farsi una parentesi in Afghanistan, è lì che ha perduto un occhio in combattimento, da ciò appunto il soprannome Il Guercio. Perché ve ne parlo? Perché sarebbe proprio lui la mente del doppio attacco di giovedì in Niger contro A, una postazione militare nigerina, B, contro un sito francese di estrazione dell'uranio gestito dalla Areva. Nella base militare di Agadez l'attacco kamikaze ha fatto 23 morti e almeno 13 feriti. Nel sito minerario di Arlit i feriti sono almeno 49, secondo fonti locali. Anche lì, manco a dirlo, sono intervenute le forze speciali francesi per limitare i danni. Allora, per capire meglio chi è Mokhtar Belmokhtar e a cosa aspira, ho sentito uno dei più grandi esperti a livello mondiale di Al-Qaeda, Andrew Lebovic. A lui ho chiesto innanzitutto se lui e il suo gruppo non stiano cercando una ribalta più ampia. Looking at his past history, has always been involved in international, in the sub-region, I should say. Guardando alla sua storia più recente, è sempre stato coinvolto in ambito internazionale. In Algeria, in Mauritania e anche in Niger, ed è collegato a un territorio ulteriormente più esteso che comprende la Libia e adesso potenzialmente la Tunisia. Sembra chiaro che stia scegliendo obiettivi molto importanti e senza dubbio sta accrescendo la sua immagine, sta creando molta più attenzione attorno ai suoi attacchi. Tra l'altro, quando è arrivata la rivendicazione dell'attacco da parte del suo gruppo, non solo del Mujahideen, il Movimento per Unicità e la Jihad nell'Africa occidentale, qualcuno è saltato sulla sedia perché le forze di sicurezza ciadiane lo avevano dato per morto qualche tempo fa. Allora, Lebovic ha menzionato la Tunisia. A lui ho chiesto se crede che possa essere la Tunisia il nuovo teatro delle operazioni di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. I think we've seen a growing involvement of Tunisian fighters in AQIM. Penso che stiamo vedendo un crescente coinvolgimento di tunisini in Al-Qaeda, nel Maghreb islamico, un coinvolgimento di tunisini in operazioni della Jihad nell'Africa nord-occidentale, e adesso assistiamo a scontri fra jihadisti e forze di sicurezza tunisine. Quindi io penso che vedremo nei prossimi mesi un aumento di incidenti e potenzialmente un reclutamento di gruppi militanti in Tunisia. E fra l'altro, a scorrere le cronache di questi giorni, se spulciate tra le news internazionali, andate a vedere che anche il traffico d'armi è ripreso in alcune zone della Tunisia, tra Libia e Algeria. L'ultima domanda per Lebovic è: quali contromisure le nazioni africane possono mettere in campo? Penso che il problema più grande, uno dei problemi più grandi adesso, in verità, sia avere un buon coordinamento. Nei fatti è stato notoriamente difficile. Negli ultimi anni per i paesi del Nord Africa e per quelli del Sahel e dell'Africa dell'Ovest, coordinarsi e raccogliere gli sforzi contro il terrorismo hanno iniziato lentamente a migliorare negli ultimi anni e stanno facendo grandi sforzi, ma rimane ancora una sfida molto seria per questi paesi. Brevissime considerazioni, anche molto velocemente. Primo, chi pensava che l'intervento francese in Mali potesse debellare la minaccia dei gruppi armati si sbagliava, perché la gigantesca area del Sahel è tutta coinvolta. Secondo, fonti nigerine dicono che i gruppi che hanno condotto i due attacchi venivano dal sud della Libia. Inesorabile conferma che ampie zone del paese sono fuori controllo. Terzo, al di là della lotta in nome della Sharia contro gli invasori del Mali, Francia e Niger, l'attacco ad Areva ha profonde ripercussioni economiche, perché l'uranio che alimenta le centrali nucleari arriva proprio da lì. Titoli di coda brevissimi: Benedetta Acri in redazione, Robby Scaltriti alla parte tecnica. Noi ci risentiamo sabato prossimo in diretta da Trento, Festival dell'Economia. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.